ammazza, 21 e 58 minuti primi, come da programma, anzi due minuti di anticipo. Ringraziamo Elettrodo che ci regala questo spazio in più per questa notte. O'clock ai controlli, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale, in vista del traguardo dei 40 anni, tra l'altro è di mercoledì, quindi non te dico niente. Perfetto. Aspetta che forse c'è, no, non c'è, vai. Ci sono, ma ci sono, perfetto, mercoledì. Ok. Quindi già stiamo mettendo così in gioco il puntatone da fare. Guarda, c'è una cuffia pure che credo quella lì di prima, che sicuramente è senz'altro un po' migliore. Allora dai, finiamo la presentazione, quella ordinaria, 87.9 della modulazione di frequenza Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, il sito della radio dove troverete tutti i podcast, le produzioni radiofoniche appunto che ci stanno, le più salienti, le più importanti, redazionali, comunicati e trasmissioni che, a cui dedichiamo, a cui decidiamo di dedicare anche uno spazio web. Andando a cliccare su Sostieni, che è la cartella, la casellina più importante, troverete una paginetta dove ci stanno almeno 10 modi differenti per poter sostenere questa emittente, quindi non avete scuse. Perché Radio Onda Rossa vive dal 1977, appunto, da 40 anni. Di autogestione e anche di autogestione quindi finanziaria, quindi grazie al contributo di compagni e compagne che ne condividono il progetto editoriale e di tutti quelli e quelle che la sostengono. Quindi 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Arboretorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. 06 491 7 50, recapito telefonico, altro numero importante che ci abbiamo, pure questo da 40 anni lo avete bene a memoria, quindi avrete occasione di tirar fuori, di ritirar fuori questa sera. Primo mi piace della storia che l'abbiamo inventato assolutamente noi qui da questi studi. Ce ne arroghiamo il diritto. Il trillino. Gratis. Quindi già abbiamo in qualche misura introdotto la voce che ci accompagnerà questa notte. Sì, perché appunto dicevamo prima, una 25 o'clock che in queste settimane cerca di non essere ordinaria. Tanto che ci siamo dimenticati quasi, come eccolo qua, vedi? Quasi ci siamo dimenticati, adesso lo andremo a testare se siamo ancora in grado di mettere due CD. Uno di seguito all'altro. Era il trillino. Il trillino. Che tra l'altro noi sappiamo interpretare, perché alle volte è il come again, altre volte invece è semplicemente così un apprezzamento, un'approvazione, un saluto. Che poi il trillino è una storia di derivazione giamaicana completamente, perché diciamo è la telefonata alla radio proprio per il Wheel Up and Come Again, cioè rimetti il pezzo. Rimetti. E questa è una cosa che abbiamo solo noi. Sì, beh, sì, penso di sì. Non credo che nessuna radio commerciale possa rimandare un pezzo. Un daturto, cioè. Beh, sì, se rimaniamo in questo ambito, sì. Forse sì, dai. Ma sicuramente nell'etere romano. Nell'etere romano credo che sì, più sì. Unici che rari. Pian piano ne parleremo, comunque una decina d'anni, forse anche qualcosa di più, di Downtown Rockers. Eh sì, Downtown Rockers ha trasmesso a Radio Onda Rossa dal 1996 al 2006. Dieci anni. Una decade. Pari pari, un mese più, mese in meno, giorno in più, giorno in meno. 10 anni mi sembra. Sì, sì. Cifra tonda. 10 anni secchi consecutivi. Sì. Pantang Laksmana berbalik belakang. Allora, qui siamo a una decina d'anni fa, 2007. Rani tida proprio un anno dopo che finiva Downtown Rockers, vedi quanto ci siamo persi. Orang. E tra l'altro avevamo qualche mese fa, quando poi la rimaniamo da capo, non vi preoccupate, quando avevamo preparato la trasmissione che avremmo dovuto fare, diciamo, intorno al solstizio d'inverno, abbiamo superato l'equinozio di primavera. Siamo primaverili. D'altronde è una puntata che voleva il sole, quindi assolutamente di notte. Avevamo pure tradotto attraverso Google Traduttore dal malese questo, adesso non ci ricordo. No, onestamente. E chi te lo verifica dal malese? Se loro giusto. Dovrebbe essere. Sì, no, no, su Google Traduttore fai tutto, certo, cioè, ti traduce delle cose proprio. Balla a sapere. Però loro dovrebbero essere ammiraglio. Cioè, si chiamano ammiraglio. Ammiraglio, admiral in inglese. Sì, sì, però sono da paura. Cioè, se vedi, insomma, l'atteggiamento che c'hanno, da ammiraglio. Promette bene, pugni alzato. Loro vengono da Singapore e cantano appunto in malese. La traccia si chiama Langakka Laskamana. Lascia verde. Qualcosa del genere. E la rimandiamo da capo, yes. Dai. Pantang Laksmana berbalik belakang, bercawat ekor dalam gelanggang, berani tidak membilang lawan, matiku pun tidak dihina orang. Diuji-uji, pantang wanita dicuba-cuba. Jangan berani mengharap upah. Langkah bagai dibilang, lenggang bagai ditata. Ku seru namamu Laksmana. Ku pasang kuda-kuda beserta bunga silat mahaguru. Gempitalah gemaku, jari-jariku mengunus keris beliku. Selagi air berhilir, selama gagak berbulu hitam. Berani mencencang, terpotong tangan. Berani berjuang, banyak melintang. Meski dihadang, jis pantang Melayu. Bermati adat, rela Melayu. Anak dilahat, berani dikerat. Tahan dikebat, nafas sesentak. Tidak disayang-sayang, umur sejemput. Tidak ditimang-timang. Hari dipakai kain selempang panjang. Sisipkan keris, berbaring terlentang. Hai hari bulan, si tanjang susah. Bagaikan ayam berkokok lantang. Ujung lidah dilelangit, mata dipejam. Mudah-mudahan dapat diberi lihat seluruh alam. Bacaan di hati, minta hajat dipenuhi. Kaki memijak bumi, bagai kilat senja. Bagai petir tunggal, jangan cuba menghampiri walaupun sejengkal. Terkenal Laksmana bukan kerana kuat melawan, tapi terkenal Laksmana kerana kuat menahan. Langkah Laksmana bergerak dengan bijak, bukan dengan terdesak-desak. Langkah Laksmana tak mudah digertak, tak akan berganjak, tak mudah memberontak. Langkah Lexmana walau di asap, pandai mengelak, tetap berdiri tegak. Langkah Lexmana yang utama, membela nusa dan bangsa sampai ke akhir nyawa. Hai, mari dipakai kain selempang panjang. Sisipkan keris berbaring terlentang. Hai, hari bulan si tanjang sasa, bagaikan ayam berkuku lantang berdembang. Jangan dikejut yang sedang tidur, jangan diseru semangat tua, jangan dibangkit yang dalam kubur, celah-celah membawa badan. Ma invece è una di quelle cose che ascoltavamo quando c'era Next Time e subito dopo c'era Downtown. Loro erano una crew che veniva da Stati Uniti, costa occidentale, adesso non so se proprio era Philadelphia, Baltimora, qualcuno di questi posti qua. Fecero un disco che tuttora mando per la varietà e le chicche che ci stanno dentro, Shiner Massive. Yeah. Whatever's happening, questo è Now. Kid, I know it's hard, I'm living a life of sin, but fuck it man, we gon' get back our rights again. Wake up and put up a fight to win, brush him off and I give him a light grin, huh. You see, I'm living the light within. From time to time, they might come invite you in, but be warned, they play for your soul. Yeah, I've been the price, I've been rolling the dice, I've been waking the night, wondering if I'm in the right. Yeah, I travel the road, fingers shut in the door. I know I'm headed for more, coming up to the shore. I want the power to change it in my life, for better or worse, the pain is right. Forever we search for change is right. Suspicious at first, insane at night, and I won't stop till I see another light. Whatever's happening is happening right now. Whatever's happening is happening right now. Whatever's happening is happening right now. Whatever's happening, man, it's going right down. Whatever's happening is happening right now. Whatever's happening is happening right now. Whatever's happening is happening right now. Whatever's happening, man, it's going right down. What can you say? Questa è una base jungle, tu lo sai che anche la jungle è nata dal reggae. Certo, semplicemente introducendo delle percussioni che venivano dalle drum machine e andando poi a... Ma fondamentalmente si narra, diciamo, la leggenda racconta che alcuni DJ londinesi fecero girare a 78 giri dei 45 giamaicani. E quindi producendo queste ritmiche estremamente serrate, esatto, e potenti. Ascolta, dato che ci siamo, insomma, Downtown Rockers nasce appunto nel 1996 sull'onda non delle primissime posse che sono di qualche anno prima, ma diciamo la seconda fase, insomma, la seconda fase, i centri sociali, Sociali e anche anni 90, sì, in pieni anni 90, i primi sound system autocostruiti a Roma, diciamo che la trasmissione nasceva fondamentalmente da l'incontro di tre persone, me e altre due, Rankis e Cammello, che appassionati di musica reggae, io ero l'ultimo arrivato, insomma. Rankis Nano è una specie di icona del reggae romano, diciamo, di all'epoca, considera proveniente che proveniente da una trasmissione storica di radio proletaria si chiamava, esatto, che si chiamava, in questo momento mi sfugge, sai per quanti anni ho letto quelle cassette, adesso mi sfugge, comunque diciamo, poi lui per anni non trasmise. A un certo punto noi vivevamo insieme, insomma, viviamo un periodo di condivisione molto grande delle attività, di tutto, della nostra vita. In quel di Spina City, che ovviamente saluto perché il mio cuore è sempre là, quindi saluto chiunque sia all'ascolto da Spina City. Nel 96, diciamo, facemmo due viaggi fondamentalmente. Io andai in Giamaica e Rankis andò a New York e tornammo con decine, centinaia di dischi. Considerate che all'epoca a Roma trovare un disco reggae non era una cosa semplice, non c'erano punti vendita di dischi specializzati, insomma si andava da Gustav, che era un distributore, Quindi per trovarti i dischi, per farti una cultura da questo punto di vista, devi proprio partire, andare a Londra o a Kingston. Sì. Ma valeva un po' per tutto, però insomma sì, per alcune produzioni era proprio necessario spostarsi. Io mi ricordo che c'era, diciamo, la capisciona, la persona con cui convivo ancora, che andava a New York per lavoro e riportava appunto queste casse di dischi, fra cui questa roba qui a New York. Era importante questo fatto, non c'era internet, non te li potevi scaricare, cioè c'era le albori. No, diciamo che Napster arrivò intorno al 97. C'erano gli albori di, però ancora questa roba qui, no, di scaricare musica, e soprattutto non potevi comprare online, dall'altro. Dovevi anche andarti a cercare, era un percorso importante nella vita, perché comunque andavi a cercarti un qualcosa. I negozietti di dischi, appunto, sì, facevano quello che potevano, però. Guarda, io a Roma non mi ricordo negozi che avessero una distribuzione tale da, a parte Gustav, che era un distributore, sì, non c'era proprio. E quindi tornammo con tutti questi dischi e i due poli, quindi sono questi, da una parte New York e dall'altra parte Giamaica. Da te mi ricordo all'aeroporto mi fermarono questi 200 e passa 7 pollici 45G, dicendo: ma sei matto? Gli spiegai che era un italiano appassionato di reggae. Da questa cosa ti colpì molto. La polizia giamaicana non è proprio per massimo, devi stare simpatico, è meglio. Diciamo in linea passare con la polizia del luogo, paesi del mondo. E quindi tornammo con tutti questi dischi, decidemmo di chiedere questa trasmissione, che iniziò, facevamo 3 ore e ci alternavamo con quella che era Next Time, dove eri anche tu, e dove era il Patata, dove era Caronte, insomma, sì, tutte le persone. Bella storia. E si era creata pure una bella storia proprio il mercoledì. Mentre venivo qua mi ricordavo che noi ogni tanto facciamo degli scherzi a Elettrodo, sì. Perché Elettrodo veniva prima di noi. Voi considerate che noi la sequenza era questa: Elettrodo faceva musica industriale, sì. Poi c'era Next Time che faceva Aiutami Tu. È difficile definire veramente, dallo ska, rock al combat, insomma veramente molto eclettica. E poi arrivavamo noi, e noi quando tardi, a volte a mezzanotte iniziamo alle 11 e alle 23:30. Quando, mentre arrivavamo qua in macchina, mi ricordo che ogni tanto c'era, se saltavate voi ad esempio, c'era Elettrodo che andava avanti e metteva questa musica industriale d'avanguardia, e noi chiamavamo e facevamo: pronto? La mette ancora, mi sa che è saltata oggi la radio. Sì, grande Elettrodo. E pronto, senti un po', ma guarda, mi sa che è saltata la radio, non è che puoi verificare? E lui ci rispondeva: no, ma guarda che sto mettendo un pezzo. Ah no, perché fa bzzz. Insomma, ricordavo questo episodio. E niente, facemmo degli anni veramente interessanti. Più tardi avrete modo anche di ascoltare delle telefonate che arrivavano, soprattutto i primi 2 anni, perché ripeto, portavamo in radio un portato anche sociale di amicizie, di militanza, e ci chiamava un sacco di gente. C'avevi 25 anni. Sì, mamma mia, che roba qui è figa. Questa non vado a ricordare. So your eardrums are rattling. Murder them, I murder them. In the competition, 'cause I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Murder them, I murder them. In the competition, 'cause I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Word. You're mindless and mindless. Vagina, who is rhymeless? The shit plays out in a month, all off goes on timeless. You're on the decline list, aggravated and shineless. I designed this for the lost, who need to find this. Find baby, and maybe you need someone to lead you. I'm acting like an infant, I'm tired of force feeding you. You can't keep running from the destiny, it's me and you. It's your own soul, your own ghost, that keeps beating you. Murder them, I murder them. In the competition, Che ve lo dica a fare 0649 1750, onda rossa. This is just a warning before I get the battle. Unsensible action, for your tractions. I'm facing the methodical serial rhyme killer, slick beats, periodical. You're in a hostile, colossal situation, and it's possible your eardrums are bust, bust, bust from penetration of lyrical flows. You cynical hoes are speechless. Murder them, I murder them. In that competition, because I never heard of them. I murder them. They come running up and make them hurt again. Murder them, I murder them. In that competition because I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up and make them hurt again. It's psychological, chronicle, audio visionaries. Insert the real life drama where the fucking streets is scary. It's diabolical. Radical is the topic, you witness the rebels raising the levels on melodical rhythm, doses of benefit, so will not explode your flow, cause if you lose control, you end up in the hospital. Incomprehensible, unconventional, no, no, or eventual tactics. Murder them, I murder them. In the competition, because I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Murder them, I murder them. In the competition because I never heard of them. I murder them, I murder them. If they come running up, I make them hurt again. Target, target, target, target, target, target, target. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. versione tumefatta di Yamama Fatboy Slim Mogwai Remix. Sì, però così mi fomenti, io mi sono preparato una cosa più easy, così mi ha fatto venire voglia. Vabbè, questo era il periodo in cui, vabbè, si mischiavano, no? Mettevi insieme l'hip hop e il ragamuffin con l'elettronica, che era pure esatto, uno dei fili conduttori. E tra l'altro all'epoca noi ci dicevamo tra di noi, manca solo una cosa ancora, cioè la commissione tra reggae e elettronica, perché in effetti hip hop, reggae, ancora sì. E poi è nato il grimy, che è un genere un po' pesantuccio per me, o il dubstep, e comunque hanno proprio colmato questo vuoto. No, perché... vabbè. Reggae all over. Grab the mic to commence with the mic tricks, applied rhymes, a man you've never heard yet. mic checks, grab the mic, I commence with the mic checks, grab the mic, I commence with the mic checks, grab the mic, I commence with the mic checks, grab the mic, I commence with the mic checks, grab the mic, I commence with the mic checks, grab the mic, I commence with the mic checks. Allora ci prepariamo all'avvento di Downtown Rockers, ospite della 25esima ora. Una trasmissione con uno dei nomi più belli mai pensati, secondo me, a Radio Onda Rossa, alla 25esima ora. Quindi salutando Stefano, ringraziandolo, ringraziando appunto la sua ospitalità, soprattutto la sua, diciamo, ostinazione nell'invitarmi. Vi assicuro che non è facile rimettere le mani sul mixer e andare in diretta dopo tanti anni. Tra l'altro l'ultima volta che questa collaborazione è andata in onda, insomma, ricordavamo qualcosa. Non era per un evento troppo piacevole. Esattamente, quindi questa sera ci rifacciamo dedicando anche tutto ciò che verrà mandato a due nostri grandissimi amici, Silvio e Patata. Danza, danza, danza. Willy Manuel Islas. E noi iniziavamo così, intorno al 2000. We bless up ghetto youth school, militant baroni, daddy, I don't know what that's me, don't know what I'm saying. I feel this, I go, I'm cocky, let me some song, why not? Yo, oh, oh, oh, oh, hey. Stock about the ground, I keep them today. Don't the rockers keep that killing them today, oh. Hey, just tune in. We've been killing song boy from we I to ya we need. We a sound killer, whoa. We be murdering sound and we take them for clown. Cause we a sound killer, whoa. The mutilation, the mutilation. Radio on the road. Yes, Massive and Crew. I cannot forget the night I met you. You gave me love in the morning. Brother man, sure was a blessing. It's always there. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Shall be murder and double murder. Hey, the mutilation, the mutilation. Ci vuole la dè, non c'è niente desaccende. I'm ready on the rosa, 87.87 89 de notte. Sintonizzate su Downtown Rockers. Voi mette, basta un video per accendere. Sugli 87.9 corrente. Mercoledì c'è Downtown Rockers, comprende. Just tune in Downtown Rockers. Just tune in Downtown Rockers. Downtown Rockers, remember, it's a number one reggae program. I can be singing best. In times like the best, where survival is the game. Let's play on. Our beds are not this high. Hey, you're just good to know. Who way you're sad. Yeah,

feel jam more and more. O il 2 è il 2, il 2, il 2. 70 easy ed. My temple praising the Father, I was giving him the thanks and praise. Pick my mind, I'm a judge, sitting here just like Aaron, Moses and David, I was giving him the thanks and praise. Now with my mind, I'm a judge, guide me firmly, guiding judge of my king, holding firm, I will don't let go. Jah, you're in full control. Love Jah with your heart and your soul. You gotta praise Him more and more and more. Run, go, rally, rally, run, rally, rally, run, rally, run, go. She come away, come away from the sinking sand. Oh yes, I run away, run away from Sodom and Gomorrah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. The hotter the battle is the sweeter. Jah victory, Jah victory. She come away. Come away from the sinking sand. Oh yes, I run away, run away from Sodom and Gomorrah. Oh, oh, oh, oh. I was sitting here in my temple praising the Father. Now greetings to the world. Voice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for now. Ooh wee. Yes. Wash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. In giro per le downtown del mondo a cercare queste commistioni, queste contaminazioni con la reggae music, musica del ghetto per definizione. Abbiamo trovato Skrillex insieme a Damian Marley, uno dei figli di Bob Marley. Il pezzo originale è su una base dubstep molto molto hard, diciamo, però questo è il remix reggae, sentite com'è venuto. fait des heures que cette meuf me donne chaud. Décidément mes excuses pour elle sonnent faux. Questa invece è una collaborazione franco-tedesca tra Sayan Supacrio e Patrice. Monsieur Rambo s'approche de WAM, l'atmosphère est moite. Voilà que ça part en sucette grave dans la boîte. Quant à moi, mieux vaut que je mette les voiles avant de voir certaines droites me transpercer la moelle jusqu'à ce que je boite. Ok, je me déplace, je calme les choses rapidement. Je fais diversion, exécutant le droit, pas de danse. On a eu chaud, ouais, ça n'est pas faux. À présent, chaud peut commencer. Yo, branchez les micros, je m'en vais les ambiancer. 96 degrees in the shade, in the shade. In the shade. Degrees in the shade, in the shade. Real art, false art, yeah. In the shade. Mal dans la salle, ambiance high. Toutes les bad vibes et Rambo sont partis dans ces high. La foule est comme sous Aya, dopé pour le concert saille. A deux, j'teste, c'est ce qu'il y a du deux monde dans cette salle. Fini la fight, les têtes battent, ambiance high. Lève ton portable ou ton briquet, ambiance high. Chalet mis en chai, considéré soleil high. Pas sorti, cacle, refait, fait, on y boucou. Ici c'est le fire. Fait chaud, on se croirait ta baille. Allez, télé chaud, reçu du crâne, les chauds. De détecter le show, et t'étudier pour tout péter. Laisser les gens épailles. Pro lorsqu'il s'agit de braille. Malgré les lacets, le mal de tête qui me gagne. Mais fait faut qu'on poursuive le show. La couleur au final égale qu'on s'est. Pas moyen qu'elle retrouve son calme après le show. Après le show, why, why. C'est le retour à la réalité. 96 degrees in the shade, in the shade. Real hot in the shade. 96 degrees in the shade, in the shade. Science super done turn up the heat. Alongside Baba Tunde Pachis, done sweep the town, done sweep the streets. All her bodies blaze up the trees. Ain't no vice like these in times like these. Turn the light on low cause we have to leave. Fit the get them, there's a show in a VIP. Le show est fini, comme d'hab j'enlève mon t-shirt mouillé. Malade, mal au dos, je suis scié. Oh, oh yeah, ce soir encore le Saiyan a plié. La scène j'ai même grillé, viens me si saigner et crier. Oh yeah, je suis dosé, je veux me reposer. Je peux pas causer mais je sens se poser. Sur moi les regards osés, du sexe opposé. Ok je me pose, j'ose, je les go proposer. Oh yeah, hey, les gars, fuyez. Vite fait, délai de lady veulent nous serrer grouillé. Nous marchons à grande poulet, sinon l'honneur est souillé. Chaque soir on se fait douiller, seuls les moches ont la culotte. Oh yeah, plutôt oh non, je suis pas OPO. Oh, les beaux, c'est stop, je suis pas désolé, désolé. C'est corps, c'est phosphore, c'est pour se faire, c'est corps. C'est mort. Vite, on sort, c'est chaud. 96 degrees in the shade, in the shade. Real hot in the shade. 96 degrees in the shade, in the shade. Real hot, yeah. In the shade, yeah. Man and gold, house fancy clothes and car. I am a ghetto man, that's just the way I am. Comme les dieux me volent, me your star. A chat force, a chat flow, but a bon flow. Like nobody knows. A DJ that dance all the parties and mash up stage shows. But some guys are recognized, I realize that I've got me your style. A long time, I tell you now, but let's come. And it's been a long while. There were people waiting, anticipating it. When you wait, they want you to do. They want me to sign, but make your star join. Not unless they sign up, they will grow. We don't commit no dirty Africa, sign your contract. But me definitely not keep no one. I will take the long way, you can't lead me astray. Just stick on me to the boss. Cause I've been in the music from the stone ages. Mashing up dancehall parties and stages. As an entertainer, I've been up places. Sign up autograph full of sexy ladies. Porsches, Primas, Lexus and Mercedes. Yellow carnations, roses and daisies. Dirty wonky, we are wonky with babies. We are the latest craze for this lady. A chat boss, a chat slow, but a good flow. Like nobody knows. A DJ that dance hall and parties and mash up stage shows. But some guys are recognized, I realize that I've got me your style. A long time, a day and now, I'm under the scam. And it's been a long while. I've been in the music business from in the 80s. That is a very long time. Lock it down. The first tuna voice was 1988. The second one I got was 1989. Lock it down. You're 95, I gave you one hit song. And I'm still here going on strong. But no people took me flop. But just like Trojan, I'm here still going on hot dogs. I chat fast and I chat slow. But I got flow. Like nobody knows. My DJ that dance all and parties and mash up stage shows. But some guys are recognized, I realize that I've got me your style. A long time, a day and now, when it has come. And it's been a long time. Colosseo di manna musica devota. Stasera è buona e non te fa la sola. La bella via da quando che li vai trova. E nella radio è storia, nelle viste scuola. Tra le fondamenta del sole che fa la scuola. Li ragamo fini di manna rota. E queste erano le cose che nascevano a Spinaceto in certe notti, diciamo di... Basta base, ci siamo. Però manca la luce rossa che illumina di rosso la radio più rossa che c'è. Ma è tardi, non gliela fai a far trellino. Se non lo fate lo faccio io, eh. Passo dopo passo dall'essenza alla sua storia, che ne fa la gloria e la rende unica. Tanta. E così brutale, come again, proprio indietro col lettore CD. Culla rulla e cloaca dal Baracca Sound. Sento la tua voce la notte, balla della danza, voglio solo tanta rock. Perché poi le cose strane sono che io arrivo qua stasera, trovo un blocchetto di post-it con scritto Baracca Sou. Non è finito, sono arrivate le guardie mentre scrivevano. Eccolo, eccolo. E allora è arrivato il trillino, la rimettiamo. 06 49 17 50 all'ascolto di Radio Onda Rossa. 25 o'clock, long side, Downtown Rockers, ormai una vecchia gloria che viene a fare così, il revival. Lo taglio così, manco a tempo perché è così la radio. Sento la tua voce la notte, balla della danza, voglio solo Downtown. musica libera. Sento che le note sgravano sotto la mia testa. Voglio solo downtown rockers. Per fortuna che downtown c'è. Oltre la musica amore comunica. Manna rota, levete da rota, sotto al Colosseo de manna musica devota, stasera de buona e non te fa la sola, la bella via da quando che li va e trova, e nella radio è storia, nelle viste è scuola, tra le fondamenta del sole che fa la scuola, li ragamo a fini, di manna rota. Allora, su questa base creata da Culla e Cloaca del Baracca Sound introduciamo questo mix che ho portato, che raccoglie, diciamo, un po' qualche minuto di montaggio di telefonate che arrivavano a Downtown Rockers tra il 96 e il 98, perché all'epoca, diciamo, c'era una partecipazione molto importante alla trasmissione anche dall'esterno. Allora, così, per fare il momento a Marcord, mandiamo un mix di telefonate arrivate in diretta, c'è anche gente che canta, ci sono voci di amici che abbiamo perso. Noi eravamo molto più giovani. Forse pure più intelligenti. Benvenuti a Downtown Rockers. Pronto? Vai, dici tutto. E niente, volevo fare un saluto a voi della trasmissione. Continuate così, insomma. Adesso sto a casa. Vi devo ringraziare, solitamente esco spesso, invece quanto pare penso che il mercoledì sera dalle 11.30 cercherò di rientrare al più presto. E se è possibile, una dedica, se avete quel pezzo di Tenor Sorin di Alarm. Ecco, quello lo vorrei dedicare a uno sconosciuto. Mettiamola così. E arrivano i primi auguri a Radio Onda Rossa da San Basilio. Roma, San Lorenzo, alla Ghetto Youth di Spinaceto, ovunque voi ci state ascoltando. Bella prova e un buon ascolto e una buona trasmissione a tutti. E quindi, dopo essere stato a stretto contatto con Dennis Al Capone, 4 giorni, Sen. Questa sera un evento eccezionale. Max Romeo ospite qui tra noi. Salta Massacana Crew, Radici nel Cemento, Tribù Acustica, Interview Live and Direct, sugli 87.9, Downtown Rockers at the Control. Sta per succedere qualcosa a Downtown Rockers, qui in diretta adesso. Allora, da bravetta, preparatevi, sto per mettere la base. Pronti, via. La planeta nella strada, te la cantiamo. E non ce ne importa niente, lo spogliamo a questo momento. Reggae per me nella strada. Sentiremo. sempre sempre noi ne cantiamo. Cosa belle le sai che lei è russa amica presente la buona in mano, ma le foglie regolare per noi. C'è una musica reggae, se lo sai, nel cuore nostro sempre libera per noi. Perché la musica è la cosa che più sai, se si da planeta per voi. Sempre stampa. Yes, yes. Bravetta Massive, dalla vai, strada. Vai, bravetta Massive, vai. Questo è lo stile nostro, sì? La ruota libera. Yes. Abbraduta, wanna be free. Se sta sempre il sole, quando è primavera, a capo se mare te gallo, sotto il sole, dentro sta città, bravetta non c'è sta. La musica è sempre nel sangue, sempre forte per noi. Cantare il reggae, non se stasamo, mai aspetti quel. Sta vibrazione, mi viene così da piangere, la prendo con attenzione. Perché per me il reggae, la vera mi fa bene. Mi fa cantare sempre, se si senti quel. Bella! Bella, bella, brava. Massimo rispetto a tutti quanti, massimo rispetto a tutti i compagni e massimo rispetto ai studenti in lotta. Flora Marci. Ciao, grazie. Allora, in diretta sulle frequenze di Onda Rossa, Downtown Rockers. Vai, Tony. Yeah, yeah. Yes, Rebel, you pan there. Yes, give thanks, Ben Arum. Everything I go on, man, I slash that rock so I don't carry you. We not a peel, so a wonderful show tomorrow. Okay. Tell the people that in an Italian language. sing some, a little bit. So that they can know it's me for real? Yeah. If there is standing by my side, then why should I be afraid of the pestilence that call it by night? If Jah is standing by my side, then why should I be afraid of the pestilence that call it by night? And I'm not standing right now, I'm lying in my bed, y'all. In diretta. Qui a Dicina del Cemento che vogliono dedicare il prossimo pezzo ai neurologi da Brigade, con la speranza di vedervi presto dal vivo. Telefoniamo dall'occupazione del piazzale degli eroi, un'occupazione di uno stabile della scuola liceo artistico Cesare Abba. Siamo 52 famiglie che abbiamo ricevuto lo sfratto dai vari proprietari succhiasangue che stanno sul territorio romano e ci siamo auto-organizzati e abbiamo occupato questa scuola. Di nuovo buonanotte, buona trasmissione e buona musica a tutti i compagni che stanno in ascolto, sosteneteci, che le famiglie in emergenza abitativa sono tantissime e di conseguenza bisogna rafforzare la lotta. Mi metti verso? Da dove stai chiamando? Dalla Liburtina. Sono in onda, sono contenta di essere in onda. Oggi sono tornata a casa dopo una lunga giornata di lavoro, di fatica e di stress, come tutti i bravi italiani e tutte le brave italiane. Il solito Berlusconi che impone e espone la sua cimice. E allora volevo dire che anche io l'ho trovata la cimice. Ho trovato una cimice pidocchio. E penso che stia controllando me e che allo stesso tempo controlli anche gli altri. Perché adesso abbiamo il telefono sotto controllo. Esattamente, esattamente. Le cimici pidocchio si spargono attraverso i fili dei telefoni e arrivano dovunque. Tutti ci avete una cimice dentro casa. La notte nella metropoli, ascoltando questa radio, non ci sentiamo sole, siamo due donne di Spinaceto, contentissime di sentire la radio. Un bacio a tutti quanti, sto a Spigna, come si dice, a lavorare e mi scaldo con Downtown Rockers. Downtown Rockers, un'altra telefonata in diretta, vai. Io sono un membro della Neurologic Dub Brigade. E insomma, ricordando l'assemblea dell'altra volta, come stanno andando le cose col gruppo, Insomma, ne abbiamo parlato, vi ringraziamo veramente tanto. Siamo da Piazza Sant'Andrea della Valle. Guarda, ci stanno i soliti locali dove la gente consuma. Non so per quale miracolo, sento la radio anche in macchina. Downtown Rockers, un'altra telefonata in diretta. Da dove chiami? Chiamo tornato da Laurentino Occupato. Laurentino Occupato. Devo dire, io quando, cioè, per stare un po' insieme con un po' di gente, stavo a sentire la trasmissione pure da là. Sono tornato adesso pure in macchina, stavo ascoltando, lo fan saluto. Saluto Nano, Cammello, voi tutti che state radio. Bella. Un bacione pure a te. Grazie di tutto. Ciao. Ciao. Frankie Sdangagan Foundation. Awa. Step forward. Original Farmind. Ande Maghe. Downtown Rockers. Questo è il nostro contributo a Downtown Rockers. Dopo Next Time. Downtown Rockers vi invita ad ascoltare Dai e pure te ogni sabato alle 3. Zigzag ai controlli. La linea diretta è una cosa che si materializza e avviene, è veramente potente. 49 17 50. Questa è Downtown Rockers. Fino alle 3 circa, se ci regge. Rimanete all'ascolto fino all'ultimo secondo. Volevo fare un saluto, sono il Bounty Ush e volevo salutare tutti quanti coloro che appunto hanno perso la loro libertà la mattina, si svegliano e non hanno la possibilità di andarsene in giro liberamente. Specialmente la gente immigrata che se la passa veramente male. Un salutone a tutti quanti la crew della ghetto là, della Downtown Rockers Original Style. Questa trasmissione comunque vuole essere in diretta soprattutto nell'ora della notte, perché dà anche un senso un po' a tutta la giornata. Buttare una giornata dentro un commissariato, a farsi insultare, a farsi minacciare da queste persone. In diretta su Onda Rossa, sempre nella birreria del centro sociale Visto Quinto. Benvenuti a Downtown Rockers. If Zapato was here, he'd be here with us. If Zapato was here, you would not pass. Though he's gone, we'll still not fail. This land is not for minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana laziale. 25 o'clock con Downtown Rockers ai controlli. Un documento di 8 minuti di piccoli frammenti di telefonate di 20 anni fa all'incirca. Che ci danno la misura, ci danno la temperatura, il polso. Di come uno, questa radio sia stata sempre nel ghetto, dalla parte di chi il ghetto lo abita. Di chi il ghetto lo vive e di chi nel ghetto combatte. Guarda caso, partiamo. Ecco, a mis hermanos perseguidos presos políticos. A la solidaridad nacional e internacional. Con questa This Land is not for sale. A la solidaridad nacional e internacional. Ripartiamo. Due, che tante delle storie che andiamo raccontando oggi riguardo occupazioni, centri sociali, vita notturna. Tutto sommato non è così differente appunto 20 anni fa con l'oggi. Non abbiamo nulla da vendere. This land is not for sale. If Zapato was here, he'd be here with us. If Zapato was here, you would not pass. Though he's gone, we'll still not fail. Neb Foundation for Atenco. Resistere, resistere, do you remember? Resistere, resistere, a tu vita non partiras, mi corda mia, balas mi matiras, perché resisto, me riego, a vivere a tu vita. Non quiero che mi si ebres, è un paese papavo di sangre. A mi pueblo, Atenco, a mis hermanos perseguidos y presos políticos. A mi pueblo, Atenco, a mis hermanos perseguidos y presos políticos. A la solidaridad nacional e internacional. A la solidaridad nacional e internacional. Shangri, bum bum ra ra ma di bum bum. 21 minuti primi, Onda Rossa. Continuiamo con suoni che vanno a pescare. in tradizioni arcaiche ma con modalità estremamente digitali. Quindi da quel crogiuolo culturale che era la Londra della trend, della trance e del trip hop, stiamo parlando in questo caso dell'anno 2001, quando usciva questo Dum Dum Project India Station. Era l'ottava traccia, Nataraja. Di Export Quality. Mentre sotto la nostra voce, sempre più o meno intorno a quegli anni lì, esattamente il 1997, usciva questo 4 tracce per quanto riguarda Dub Pistols. Skunk Drunk. Da capo, Onda Rossa. Nel frattempo vediamo che Jordi Ai si anima va a cercare nella cassettina. È un bel periodo, questo qua. Ma no, se mi vai su queste vibes, io proprio non so. Non sai resistere. Ho cambiato selezione, ho deciso di seguirti su questa traccia. Commentavamo prima di quale modernità, quale visionarietà. Potesse avere quella generazione che in fondo è anche un po' la nostra, dai. Ci autoincensiamo. D'altronde l'avevamo detto prima, probabilmente eravamo anche molto più intelligenti di oggi. Vabbè, è un fatto di neuroni, scientifico proprio, dopo una certa età il neurone... Poi ci stanno certe sostanze che aiutano, diciamo. Diciamo che certe abitudini aiutano a bruciare il neurone un po' prima. Però quante ne fai? Anzi... Lo mettono anche in moto, secondo me, il neurone un pochino, Diciamo che ti fanno prendere strade, sfruttano il neurone, diciamo, in quel lasso di vita che sembra siano i primi 25 anni, perché poi è finita, dopo 25 non li produci più. Diciamo che lo aiutano a avere un'esistenza, un'infanzia felice. Mettiamolo. Un'infanzia felice, ma io penso pure ad aprire alcune cose, altrimenti le strade sono quelle. Invece bruciandone qualcuno, giusto, guadagni. L'informazione è costretta a prendere un'altra strada. Mettiamola così. No, solo un problema viene in mente, no? Dico, certo, noi siamo la generazione che verso i 75 ancora andrà al lavoro, no? Ancora starà lì a cercare lavoro, oppure se ce l'avrà, comunque starà ancora lavorando. Sì. E a questo punto abbiamo fatto bene a bruciarli prima i neuroni. Certo. Che li metti in produzione. E li sottrai dalla produzione del padrone. Bra. Sei 491750 e mica solo se c'è sta Jordi Ai di qua. Dovete azionare il ditino, dai. Diamond ring, oh. Dub Inc. Zion Train. Money Remix. Dai. Money is a terrible thing. Make one weak while the other one sing. Pick a brother for a diamond ring. Oh, money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Oh, money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Oh, money is a terrible thing. Dollar, dollar for you. Check out the manner we acting like fools. Steal our bread during our session. False enemy, wrong direction. La. people have to really get tired. As a powerful, I go rap them power. See me stars and boss man, the new slave master. Must realize our rage is like a fire. Now understand the size of disaster. Before you think, food and the nature. Bringing every day for disease and cancer. Now listening, they might play with fire. Money is a terrible thing. Make one weak, one the other one sing. Keep your brother for a diamond ring. Oh, money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Oh, money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Oh, money is a terrible thing. Lie, lie, every day they lie. And they say we cannot escape from this. This is a system. Lie, lie, see they lie. Dollar, dollar bill. Check out the manner we acting like fool. Steal our prejudice during our session. False enemy, wrong direction. Money is a terrible thing. Make one weak and the other one sing. Keep your brother for a diamond. Te stai a preparare? Pronto, sto pronto. Bene. Allora, questo qui è un'altra autoproduzione di una radio a noi molto vicina, cugina, come dire, da Torino, Radio Blackout. Questa era una produzione di un personaggio che è passato più volte pure qui, il Sor Mastello, lo chiamiamo da queste parti. Dub Master. Lui in realtà viene dal punk, ma e fa punk e ha prodotto, autoprodotto punk in quel di Torino, che è una città divisa a metà proprio fra vibrazioni e tradizione invece punk hardcore. Ma qui mi è andato sul dub. E qui andare sul dub, hanno aperto una sotterichetta, un esperimento, e ha prodotto appunto per Blackout, in sottoscrizione a Blackout, questo lavoro, questo 11 tracce che si chiama Support Radio Blackout, Dub Blackout, da cui andiamo a trarre, ve la mandiamo da qua, da capo, Lab Frequency, Met, Natty Bass, ODG, Lab and Dub, da capo, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, dai. You have 5 seconds to terminate this tape. 5. I controlli a Jordi AI. 3, 2, 1, 1. su questo dub wise, diciamo una sonorità che caratterizzava anche Downtown Rockets, perché comunque noi agivamo su tre ore, eravamo in tre e spesso decidevamo proprio di dividerci anche i generi, magari si finiva col dub così giusto per accompagnare diciamo il percorso verso il sonno. Questo non perché il dub faccia dormire, ma perché il dub apre le vie, ispira la mente. Food for mind lo chiamavamo. È quello più vicino comunque al mondo di Morfeo, insomma, comunque a un mondo sognante, fatto. Eppure forse quello più vicino a alcune sonorità psichedeliche che invece facevano parte di quest'altra parte del... Beh, diciamo che sono ritmi sostenibili in una società in cui il ritmo è la cosa che ti devasta. Assennato, certo. Riprendersi quindi il ritmo, il battito cardiaco, la naturalità di una vita passata il meno possibile sotto lo sfruttamento. Allora, anche per combattere questo sfruttamento, noi questa sera adesso le reinnalziamo queste vibes e proponiamo il nostro tempo veloce. Questo è il late kung fu di Top Cat, ovvero il kung fu che si fa tarda notte nella mente. This kung fu, it and it's original junkin' master passing through. And I'm a juggernaut and I'm a bro. Special request to you, you and God knows who. To all the late night crew, one of a juggling. And this is Mr. Cat, the star of kung fu show. All in the one crystal fist and the praying mantis. And the out of them a young shampoo. To all the late night crew, one of a juggling. And this is Mr. Cat, the star of kung fu show. All in the one crystal fist and the praying mantis. And the old and them a young shampoo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, yeah, some boy them a talk about aya aya oh. Enough of them a go and let them a practice kung fu. We tell them it's original junkin' master passing through. And them a dragon and all them a bro. Special request to you, you and God knows oh. Don't want the late night crew and off the juggling. And this is Mr. Chat, the star of kung fu show. And with the one crystal fist and the praying mantis. And the out of them a young shampoo. Don't want the late night crew and off the juggling. And this is Mr. Chat, the star of kung fu show. And with the one crystal fist and the praying mantis. And the out of them a young shampoo. Shaolin Temple, we have five animal styles. The dragon, the crane, the snake, the tiger, the leopard. Put up on the edge, she a call me. Murderer. See the Italia fa le canzoni a Bavia. Vuole una pena si accave. Grandi mani vena si accave. Sintia fa le canzoni a Bavia. Tutta quanti e dan si accave. Te la ceci non fi tempi cammina vive. Te la ceci non fi tempi cammina vive. If you ride a full ass kill like evil carnival. Se si ready fi di kill me papa like a weave. Talking like she tough and know she ain't no puppy beg me. Do not spread that, do not spread that, spread that you a shakery. Stop my baby, do not honey color, she tap on me. Me not like the way yo, you turn me. All I really have is when she a call me. Murder run the body, red and she a call me. Murder two time put me in a red and she a call me. Murder sing me off a leg and she a bar me. Murder all I really have is when she a call me. Murder run the body, red and she a call me. Murder sing me off a leg and she a call me. Murder sweat up on the bed and she a ball me. Murder well she go climb on the leather and drop. Me never give a damn cause me never won't stop. Me tell her who I am, Mr. Mekuman Gap. She double, double wrong, she request it from back. I know she a regret, so she won't burn her mouth. She think that she no know what she did that about. The water and the air and the yoko and stone. Let me be sick, she dizzy and she nearly pass out. She not be fresh, she a call me. Murder her. From the red and she a call me. Murder her. Put her on the head and she a call me. Murder her. Wake up on the bed and she a call me. Murder her. Wall her in the bed and she a call me. Murder her. Put the foot behind her head and she a call me. Murder her. Me run the body red and she a call me. Murder her. Sing the apple and she a ball me. Yeah. Murder, hey. When I sex, yeah, she go request. Yeah, when she get, yeah, she a regret. Yeah, I'm jobless, you don't know it's hey. Not hey. Nothing me some this. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no. Demolition man dead, you know, million dead, you know. I'm right today, you know, frisky day, you know. I saw the day, you know, the John was then that out. Now the time is done day, you know, but it's a cut out. But the time is done day, you know, but it's a cut out. But the time is done day, you know, but it's a cut out. I'ma tell them now. Hey, them no like we, them a fight we. Them a do a type of thing that's fist fight we. Them play a hate we, them no rate we. Just because them impress one date we. Them no like we, them a fight we. Them a do a type of thing that's fist fight we. Them play a hate we, them no rate we. Just because them girlfriend one date we. Yo, we have no wiper, hungry typer. I'm the way me proof it flash up on no lighter. But not Eden, and not backbiter. When it comes to killing them, well, lyrically, I'm a sniper. We have no wiper, and gay typer. All the jungle proof, if that's up on the lighter. But not Eden, and not backbiter. When it comes to killing them, well, lyrically. Hey, so. People the fight with the bow, with the bomb, the militian, they with the lyrical song, with the come, with the come, with the blues, like a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun, dig a dun. Time, so come catch my flow. When I come, well, how are you feel now? Now listen, this time to you. Catch my flow, catch my flow. Yeah, catch my flow. Boy, time, so come catch my flow. Yeah, something, that's how far you feel now. Now the junkies come to you now. Now the junkies come to you now. But the vibe, sicky, sicky, don't kill me. Oh no. Fee with the vibe, with the flow, with the come, with the come, with the come, with the lyric, all time, the belly, shun, the yarn, with the come, with the place, they tag, I don't kill it. Fee with the fire, with the flow, with the come, the belly, shun, the ever, the first time, baby, come, baby, come, with the place, I got done. Digga, digga, digga, digga, just give me the bidding, man, don't stop it, come in there, if you rock it, I shock it, the belly, shun, now go. Just give me the bidding, let me flop it, dip, dip. Minago, Minago, mama tell them, just give me the bidding, Minago, just give me the bidding, Minago, just give me the bidding, Minago, just give me the bidding, Minago, just give me the bidding, man, don't stop it, man, come to. Yeah, that really me vibe, just see. Well, no demolition, you know me, there you now. Wanna get me? Yo, you know me, Minago, bow. Wanna get me? Yo, I wanna sweat now. Again! Demolition, me, there you now. Wanna get me? Million and on them on there, you know. Wanna get me? I see your frisky down there, you know. Wanna get me? Wanna get me? Wanna get me? Wanna get me? Wanna get me? Allora li abbiamo alzati e come i ritmi Junglism nella notte di Radio Onda Rossa 87.9 in FM nell'etere romano. La jungle, un genere che nei primi anni 90 era veramente di nicchia. Io, parlando prima con Stefano, ricordavo come alcuni amici, anche noi stessi, producessimo delle cassette registrate proprio da noi, doppiando il classico doppia cassette dell'epoca. Cassette di musica jungle che qualcuno aveva rimediato da radio londinesi e che a Roma non esistevano proprio come genere, non si faceva nei club, nei posti, da nessuna parte. Ma si faceva invece nei centri sociali, proprio perché comunque erano portatori all'epoca di innovazione anche da questo punto di vista. Quindi se chi faceva queste cose all'ascolto mi capirà benissimo. E oggi certe basi magari te le trovi come base sonora per qualche pubblicità di qualche multinazionale. Cioè, questo qui è sempre il discorso. Andiamo da il ghetto di Londra, dove appunto dei pischelli inventano letteralmente qualcosa, vanno altri pischelli dall'altra parte del mondo, comunque a qualche migliaio di chilometri, sta roba poi in realtà è creata, qualcuno se ne appropria e ci fa i soldi. Ma io ricordo esattamente quando ho avuto la sensazione che il mercato si stesse appropriando di queste tendenze, che era proprio sul finire degli anni 90. Me lo ricordo bene, questa sensazione di aver detto: porca miseria, ci stanno fregando. Perché poi il potere è proprio quello, captare tutto ciò che è di innovativo, si esprime nella società e trasformarlo in soldi. E qui alziamo decisamente i ritmi. Pendulum. Allora noi premiamo chi ha trillato in un orario così tardo e lo rimandiamo, la tarantula. E quindi proprio come una tarantola fa la tela, il mercato, e cattura tutte le innovazioni, le rende commercializzabili e ci frega così. Get some. bad like lion, see? Original conquering lion. 5-0 dynamite inside here, yeah? We represent like this, remember, dedicated to all of the family within the scene. Can we rise up and represent all communities, yeah? Throughout the UK, throughout the world. Original Godfather 5, a legendary, come telling us off. And I like that, yeah, love it, yeah? Dedicated to that big, big family. World of Dynamite. The scene, think of the family, you know who I mean. And when we all come together, then we all get lean. The chemistry's still here, and we all miss Stevie Hyper. If you're part of that scene, show love and burn light at the scene. Think of the family, you know who I mean. And when we all come together, then we all get lean. The chemistry's still here, and we all miss Stevie Hyper. If you're part of that scene, show love and burn light. I saw Brian G and Warren G waiting for Andy C. I had a head rush, I had to sit next to Icy Free. Ordered gin and juice, and nearly bumped into the moose. He told me, Rocky landed helicopters up on the roof. Adam F looked out of breath, so I sent for Doc Scott. MCMC said he was fine, but Rob said he looked hot. Yeah, Dabs was getting fierce, thanks to Kenny Skibber Shabbity. Stay then he collapsed. Some blame Foxy, some blame Fat Man D. They thought it was the end, but there was still some more fabric. Had to swerve out the way of the movement and hit the bar quick. I said I'm us for champagne, they told me 5-0. Darren J wouldn't pay, and Mickey Flynn just said no. So he showed that we were fearless and just snatched it and ran. Obstacle was in the way, I knocked the weed out his hand. Groove Rider just laugh, big grin on his face. Dillinger paid no attention and just turned up the bass. The scene, big up the family, you know who I mean. And when we all come together, then we all get lean. The chemistry's still here, and we all miss Stevie Hyper. If you're part of that scene, show love and burn light at the scene. Big up the family, you know who I mean. And when we all come together, then we all get lean. The chemistry's still here, and we all miss Stevie Hyper. If you're part of that scene, show love and burn light. Nobody was shy that night, we were keeping bad company. Randall bought his Jeep. Io l'avevo preparata la scaletta questa sera, ma poi lo so che alla fine, quando poi riesci a trovare quell'empatia che si trova facilmente tra Downtown Rockers e 25 O'Clock, alla fine si va a ruota libera. Adesso progressivamente, tranquilli, andremo a calare. The flux is burning critical. Donovan bought me a JD, now my side is going digital. Stepped outside, so Conrad. Però se ci stanno una di quelle cose che seguita un po' di anni, nella fattispecie si tratta di Death Grip, che è una formazione che viene dalla California, da Los Angeles, essenzialmente nera, che fa una di quelle commissioni stranissime, che va a prendere, va a saccheggiare, fare sample di robe magari di 40 anni prima, prese dalla psichedelia, dal jazz, dal mischia tutto, fa una roba incredibile, pesantissima, assolutamente difficile da ascoltare, insomma. Però ecco, questo qui, se proprio vogliamo paragonare i suoni che uscivano proprio in quegli anni, alla fine degli anni 90, a cavallo col 2000, metà degli anni 90, a cavallo col 2000, ecco, questi qui sono Death Grip. Abbiamo scelto una traccia col titolo facilissimo che si chiama E essenzialmente, come possiamo dire, like to you know who I am, fucks fail to understand, I'm like, eh. Who you think you are, fucks like to you know who I am, fucks fail to understand, I'm like, eh. Two-letter text, translation, next. Skip that rewind like you see my seen them all, yeah, eh. Have you the slightest idea why? You're so trifling, second I see you coming, I'm too sucking like, eh, my voice, eh. See my reflection, eh. Invited, excited, eh. Hey, who you think you are, fucks like to you know who I am, fucks fail to understand, I'm like, eh. Who you think you are, fucks like to you know who I am, fucks fail to understand, I must confess, I'm like, eh. No one's ever seen me feel shit with eh. Your bits of egg gleaming like this Christ, cover me like skin tight. Why my rap is like, why they might be right. I'm kinda sketch, I might shoot a glance at the desperate light. Then I forget you're like death grips like, eh. I wave them off, I wave them in. Gotta fleck, I fuck them off, cause I then I'm like, eh. Who you think you are, if fucks like to you know who I am. Fucks fail to understand I'm like, eh. Who you think you are? Fucks like to you know who I am. Fucks fail to understand I'm like, eh. My approach like I'm a ghost, like I'm out of focus, cause I'm coated with the most stripes. Late movement on my trajectory, anomalous like entropy. Make all things perforate at the upper eye of blind traitors. I'm like, eh. Pop me up, still leave, but your voice split. I'm like, pass me up, still leave, but your voice split. I'm like, eh. Who you think you are? Fucks like to you know who I am. Fucks fail to understand I'm like, eh. Who puts your open flex on ice? Who's effortless, corrupts the dice? Who does you just like I told you? Tell me, what's it like? I'm like, don't be a, don't be a. Got mummified, want me to send my chips up to me, cause I figure I want you on the knock and turn. Maneuver MC. I'm a one-man powerhouse. Allora io ero quello che voleva abbassare i ritmi. I'm just a long foot. Bandito, bandito. Roots Manuva. I keep it on a holy altar, body mind blown, blown, blown, blown, blown, blown. I'm just a long foot. Bandito, bandito, bandito, bandito, bandito. I keep it on a holy altar, body mind blown, blown, blown, blown. Baby, baby, baby. Maneuver MC. We professional. Maneuver MC. Maneuver MC. We professional. Maneuver MC. Some zone, zone, zone, zone, zone, zone, zone, zone, zone. Spinning in the whirlpool. Blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow. We in some zone, zone, zone, zone, zone, zone, zone, zone, zone. Spinning in the whirlpool. Blow, blow, blow, blow, blow, blow. Baby, baby, baby. Quell'altro, il 2, eccolo qua. Venerdì 7 aprile ci sarà un concerto per sovvenzionare il fondo della classe, della cassa del comitato 1666 per Almaviva. Suoneranno gli Scasso, quindi per rimanere in tema, con ospiti Rasta Blanco e Rugantino, Le Radici del Cemento, poi musica tradizionale e presentazione del nuovo disco solista di Zulu. Suono, questo suono si chiama il disco solista appunto di Zulu, ricorderete ovviamente 99 Posse, e infine DJ Set con Lampad Red, tanto per rimanere in nomi che hanno attraversato e speriamo che attraverseranno ancora questa radio per tanti e tanti anni. L'ingresso a sottoscrizione sarà devoluto ai lavoratori licenziati da Almaviva Contact, insomma, questo per dire come suoni e invece iniziative di lotta, di resistenza, di sopravvivenza, insomma di battaglia, debbano continuare a persistere in questa radio e fuori, ecco, dai. Sound is the number one sound. I see the E1 sound. I see the dunk off the world. Move my body. Look what you see is going on. How many times I've been chewed up by jungle sound. Baby, the jumping sound. I see the rubber tap sound. I see the dunk off the down. Jungle sound, the number one sound. No, my brother and sister, you better listen to me. Don't know what we're fighting. It's much more jungle sound is playing more. You got to fight for a right. Until daylight, jungle sound play into the west. Jungle sound play into the north. Jungle sound play into the south. Oh, jungle sound play in far east. For east. and say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way sudden cools my temper. You never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Take a walk, take a rest. Taste the rest. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Now take a walk, take a rest. Taste the rest. Calma. Now take a walk, take a rest. Now taste the rest. Karma è meglio. Don't wanna be on top of your list. 12 minuti dopo la mezzanotte, Karma Coma. Kissed. We overcome in 60 seconds with the strength we have together, but for now. Emotional ties, they stay severed. When there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma Coma. Jamaica and Roma. Karma Coma. Jamaica and Roma. Karma Coma. Jamaica and Roma. Karma Coma. Ancora nella grande Londra da Birmingham. Massive Attack, forse una delle formazioni che del trip hop rappresentano l'icona. Una Londra multietnica. Dove le varie stirpi, anche se stirpe è una parola che a noi non piace affatto. Il ghetto, insomma, che sta in ogni parte del mondo. Luogo dove si va a tingere le braccia. La manodopera più umile. Coma, what? Jamaica and Roma, coma, coma, what? Jamaica and Roma, coma, coma, what? Jamaica and Roma, coma, coma, what? Jamaica and Roma. Mentre ci arrivano notizie di ascolti, di gruppi di ascolto da Udine, da Milano. Mentre ci fanno sapere che non abbiamo ricordato dell'iniziativa che abbiamo da poco annunciato, che appunto il luogo dove si farà è ovviamente il Lo Acrobax, l'ex cinodromo, come lo volete chiamare. e andiamo a San Francisco. Ci chiamate Come Again, però ve lo diciamo, ormai non connettiamo più 18 minuti dopo la mezzanotte. Ci siamo dati come obiettivo la mezzanotte e mezza, vediamo se riusciremo ad arrivarci. Questo è lo zio di tutti, però scritto col K, si chiama Uncle il progetto, come dicevamo, da San Francisco, comprendente il Sor DJ Shadow, una delle anime di questo progetto, di questo collettivo, ma uno di quei progetti e collettivi che cambia di volta in volta forma e dimensione. We'll be right back. mantenendo comunque un beat, una pulsazione, un suono, un ritmo. Sapendo che, come diceva un vecchio canto anarchico, nostra patria è il mondo intero. Non ci facciamo senz'altro problemi di confini, in special modo in quest'ora, in questo spazio. Lo spazio rubato ai ritmi del consumo e della produzione, o se preferite della produzione e del consumo. Andiamo a parlare di un vecchio signore che si chiama Pacciani Brothers. Vecchio padre dell'elettronica romana. In questo caso è inserito in una collezione della batteria. 26. Minuti dopo la mezzanotte vuol dire che andiamo 27 per l'esattezza e andiamo a concludere. Due ore e mezza di trasmissione sperando che il giochetto ha funzionato. Crediamo proprio di sì, anche perché Jordi Ai si è scrollato la polvere di tutti questi anni lontano dal mixer. E giustamente quando le l'atmosfera che riusciamo a creare è stimolante. Anche vecchi compagni e amici chiamano. Per ricordarci tra l'altro una cosa importante proprio di questi giorni, il progetto TAP, cioè l'oleodotto, il gasdotto che attraverserà Adriatico proveniente dalle terre di produzione degli idrocarburi e andrà a sbarcare proprio nella costa, sulla costa salentina. Un'altra, l'ennesima di quelle grandi opere, la TAP appunto. A cui tutti e tutte dovremmo dare il nostro contributo di lotta, di battaglia, di opposizione. Per ciò che ci ricordano di salutare i No TAP. Oleodotto che andrà su una, andrà a insistere, andrà a devastare, a distruggere una delle spiagge più frequentate e più belle della costa salentina, cioè Santa Foca. allora sì, parlavamo proprio di là dei SID. Vabbè, beh, dovremmo fare altre 5 o 6 trasmissioni. Dovremmo fare le trasmissioni, perché poi quando ci incontriamo ci raccontiamo delle storie veramente incredibili vissute in questi anni di Radio Onda Rossa. Sì. No, non lo so se quello o questo. Vai un po', a riparla? No, a riparlo, vediamo se sì, sono in tutti e due. Adesso. Tutte e due, tutte diciamo e un due. Po', vai, scegliamone vai. Uno. Yes, quello yes. Che ti piace di più. Il 2, vai col 2. E quindi sul 2 io vi dico che siamo arrivati al termine di questa veramente piacevole serata in cui sì, io sì. Ringrazio 25 O'Clock di avermi invitato, perché tutto sommato ormai vengo a fare la vecchia gloria. No, invece no, speriamo che sia di stimolo invece questa roba qua per appunto scrollare, come dicevamo prima, la polvere di dosso dei 10 anni di inattività e esatto. Che possa funzionare come poi tra l'altro acclamato da molti, insomma, per un tuo ritorno comunque a mettere le mani sul mixer. Allora diciamo che ritorneremo e soprattutto possiamo anche chiudere con una riflessione: se è possibile un incontro fra 25 O'Clock e Downtown Rockers. E va come va, anche dal punto di vista, dico, proprio delle vibrazioni, dello stile che si incontra, si compenetra e poi si lascia, ma si rincontra un'altra volta. Diciamo che sono proprio queste le esperienze da portare a valorizzare. È così, questo è quello che ci piace e come ci piace fare radio. Va bene, ritorneremo. Dai, allora 00:33, Fat Freddy's Drop dalla Nuova Zelanda, dall'altra parte del mondo, con ecco, Fat Freddy's Drop, è proprio questo il punto d'unione. È proprio forse questo qui, il punto dove ci siamo lasciati. Incredibile, che sa unire jazz, dub, sonorità elettroniche, reggae, veramente. E soprattutto proveniente dalla Nuova Zelanda. Nuova Zelanda. Che so, sti Maori, capito? Che non si sa. Dai, bella, a risentirci con tutti e tutte. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE. Tutti i decreti amministrativi che obbligano compagni e compagne, che obbligano le persone al di fuori della norma a risiedere, a stare nei comuni di dove risiedono, addirittura di non poter mettere piedi e mani nel comune invece dove risiedono, delle cose assurde, dove lavorano. Le programmazioni di Radio Onda Rossa finiscono qui, riprenderanno domani mattina dopo la compagna automatica Ario con le sue repliche e le sue selezioni musicali, con il consueto palinsesto del giovedì, rassegna stampa, redazionali, GR, visionari, tracce di cinema, insomma tutto quello che volete, la schiena del soul, Attica Blues prima, Mezzedes, martedì femminista, gestito da femministe e lesbiche che va in onda il giovedì, e questa pure, un giorno ve la spieghiamo. Fine apostasia, dai! Saluto a tutti e a tutte, grazie a Jordi Ai. Ci risentiamo mercoledì prossimo, chissà che forse non verranno a presentarci proprio un disco qua, dai! Sister, the best dreams. share our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.